24, i gialli della storia. Ho reso quell'omaggio a nome dell'Italia, di tutta l'Italia, nel ricordo di quanti governavano l'Italia nel 1956 e assunsero una posizione risoluta a sostegno dell'insurrezione ungherese e contro l'intervento militare sovietico, e anche a nome di quanti nel corso del tempo hanno saputo riconoscere la straordinaria importanza e lungimiranza di quell'evento rivoluzionario. Erano le parole di Giorgio Napolitano pronunciate in occasione della commemorazione della rivoluzione ungherese del 56. Una rivoluzione durata solo 13 giorni, ma che sarà tragica e cruenta. Tutto ha inizio il 23 ottobre del 56, quando una folla di studenti operai e contadini si raduna di fronte al Parlamento di Budapest. Sono migliaia di persone che inneggiano alla libertà. Ma quel sogno si trasforma presto in un incubo. È l'alba del 4 novembre, quando l'Armata Rossa invade Budapest e la città è bombardata e incendiata. I morti sono 15.000, a cui bisogna aggiungere le vittime delle esecuzioni sommarie e migliaia di profughi che cercano di scappare dall'orrore. Una tragedia per la sinistra europea, una ferita che è ancora aperta, perché pochi capirono e ebbero il coraggio di denunciare e criticare la presenza e le azioni dei carri armati sovietici. Oggi a Mix24 racconteremo quei giorni attraverso la testimonianza di Imre Max, allora studente, e Miklos Egedus, collaboratore di Imre Nagy. Basta una sola scintilla a dare l'avvio. Questo è il destino delle rivoluzioni. L'inizio è apparentemente normale, senza grandi scosse. Ma la scintilla fa divampare l'incendio. Il processo rivoluzionario si mette a correre, diventa imprevedibile. Così è accaduto a Budapest nel 1956. Gli studenti si erano mossi in modo ordinato, chiedendo il rispetto di libertà elementari. La manifestazione era stata autorizzata. Nello stesso momento, l'uomo che di lì a poco sarebbe diventato protagonista assoluto, Imre Nagy, se ne stava ignaro sul lago Balaton alla festa della vendemmia. Qualche ora dopo, il quadro cambia bruscamente. E così sarebbe accaduto via via per ognuno dei 12 giorni successivi, vissuti come un'avventura con molte incognite. Gli studenti, non a caso, si raccolgono subito dinanzi al monumento di Sándor Petőfi, il poeta eroe della rivoluzione del 1848. I suoi versi diventano i primi slogan della protesta. Giuriamo di essere liberi. L'anno 1956 nasce all'insegna dell'attacco al mito di Stalin. La denuncia di Khrushchev dalla tribuna del 20° congresso dei comunisti sovietici provoca un terremoto che scuote l'est. C'è una crisi polacca con un cambio di direzione politica. I giovani di Budapest si muovono su questa stessa scia, solidarizzando con la Polonia e chiedendo democrazia per l'Ungheria. Quando siamo entrati nella piazza c'era già una folla enorme e anche la nostra organizzazione ha cominciato ad allentarsi. Intanto anche il vicino Ponte Margherita si è riempito di gente. È il primo pomeriggio quando la protesta, una folla immensa ormai, giunge al Parlamento. Dopo molte resistenze, Imre Nagy accetta di fare un discorso. Non ha ancora un'idea esatta di quanto sta accadendo, ma il solo fatto di parlare da quel balcone davanti a decine di migliaia di persone lo mette al centro degli avvenimenti. La sua popolarità lo mette nella posizione di unica alternativa al potere oppressivo degli stalinisti, che solo un anno prima lo avevano cacciato dalla guida del governo, espellendolo anche dal partito. Gli avvenimenti hanno conosciuto diverse fasi. Il movimento di protesta è partito come un tipico movimento di riforma, la cui base sociologica era la gioventù universitaria. Ciò è abbastanza tipico della storia ungherese, ricorderei il 15 marzo 1848. La dimostrazione, emanazione del movimento riformatore, cambia carattere nel pomeriggio del 23 ottobre, verso le 4, ovviamente non è possibile fissare un momento preciso. Cambia in parte anche la base sociologica. Alla gioventù universitaria si aggiunge il popolo della strada. Chi aveva sentito che cosa stava succedendo si unisce alla dimostrazione. Contemporaneamente cambiano le parole d'ordine. Nella tarda serata e nel corso della notte si è passati alla rivolta armata. I diversi gruppi armati presenti nelle strade vengono unificati da rivendicazioni nazionali. È dinanzi alla radio che esplode il primo scontro. Gli studenti chiedono che siano mandati in onda i punti delle loro rivendicazioni, ma l'attesa è delusa e nello scontro viene per la prima volta versato il sangue. A partire dagli scontri sotto i cancelli della radio, la protesta acquista il carattere di una vera e propria rivolta condotta con le armi. Armi strappate all'esercito, alla polizia, in mano a giovani e giovanissimi che si buttano nella mischia pagando un prezzo elevatissimo con morti e feriti. A questo punto non c'è più spazio per alcuna mediazione. La situazione è del tutto nuova e imprevedibile. Ai margini del parco di Budapest si compie l'atto più espressivo ed eloquente. La statua di Stalin, alta 7 metri, viene fatta cadere e ridotta in pezzi. Poche ore sono bastate per portare una ferita mortale al ristretto gruppo stalinista ungherese. I Rákosi e i Gero sanno di non avere più dinanzi a sé un avvenire. Del resto, da Mosca, lo stesso Khrushchev li aveva avvertiti per tempo. State attenti, il popolo vi caccerà con le forche. La prima riunione notturna del 23 ottobre è drammatica. La situazione stessa suggerisce l'unica soluzione possibile, il ritorno di Nagy alla testa del governo. Gli stalinisti si adeguano, ma fanno di tutto per condizionare questo sbocco politico. Nello stesso tempo decidono di fare appello a Mosca per chiedere l'aiuto delle truppe russe a Budapest e nelle altre città. I carri armati T-34 compaiono nei viali della capitale. La prima scossa dello slancio rivoluzionario produce subito due effetti. Nagy, presidente del Consiglio, e János Kádár, segretario del partito, un partito che cambia nome e dovrebbe essere rifondato. Nel governo c'è una parziale novità. Vi entrano due esponenti del vecchio partito contadino e il grande filosofo Lukács. Il 25 ottobre è il giorno dell'eccidio in piazza Kossuth, davanti al Parlamento. La gente si ferma a parlare con i soldati russi. Ma dalle finestre di queste mansarde qualcuno spara a raffica. I sovietici rispondono a casaccio e muoiono decine di persone. La rivolta si estende a macchia d'olio in tutta l'Ungheria. Nel frattempo gli scontri si fanno più aspri, soprattutto presso il cinema Corvin e la caserma Killian, dove gli insorti sparano contro l'esercito e dove si costituirà un gruppo armato che resisterà anche dopo l'intervento sovietico, fino all'annichilimento il 9 novembre. Ed è qui che compare come mediatore Pal Mahleter, che di fatto costruisce un'alleanza tra l'esercito regolare e gli insorti. Mio marito Mahleter aveva ricevuto l'ordine di ripulire la caserma Killian dagli insorti. Era partito con 5 autoblinde, ma lui si mise a parlare con gli insorti e si trovò a condividere i loro fini. Con questa gente stabilì prima di tutto un accordo, che si può dire di neutralità. Promise che la caserma non avrebbe combattuto contro gli insorti se gli insorti non avessero combattuto contro la caserma. Intanto il conflitto si allarga, nelle fabbriche si istituiscono spontaneamente gruppi di operai che si riuniscono in assemblee infinite, comitati che non fanno solo richieste sindacali, ma che propongono anche soluzioni politiche e sociali. E la prima richiesta è il ritiro del contingente sovietico dall'Ungheria. Il 30 ottobre l'odio di quelle ore provoca un tragico scontro in Piazza della Repubblica. Tra le molte voci incontrollate fatte circolare, una scatena la furia di alcuni gruppi. Si fa credere che nella sede del Partito Comunista della città si siano rifugiati gli autori dell'eccidio di 5 giorni prima, davanti al Parlamento. La sede viene assalita, Molti sono uccisi sul posto. Dei loro corpi viene fatto scempio. È questo il posto dove il 30 ottobre alle 3 del pomeriggio i controrivoluzionari ci hanno assassinato senza pietà. Sì, dico proprio così, assassinato. Me e i 5 miei compagni. Ho riportato gravi ferite, ma come vede sono sopravvissuto. A un certo punto i comandi sovietici muovono i carri armati che lasciano i viali di Budapest. È un ritiro? No, probabilmente è una mossa tattica. Ciò contribuisce comunque a mutare il clima. La vita sembra riprendere, si seppelliscono le prime vittime, si curano i feriti, arrivano i primi aiuti della Croce Rossa Internazionale e c'è chi spera in un esito vittorioso della sollevazione popolare. Viene proclamata la fine del regime a partito unico. Nagy afferma che si deve tornare al sistema basato su una collaborazione democratica dei partiti, come quella esistente nel 1945. La conseguenza logica è la creazione di un governo fondato su una coalizione di più partiti. Entrano a farne parte anche tre socialdemocratici capeggiati dalla popolarissima Anna Ketley, oltre a quattro comunisti riformisti e a rappresentanti dei piccoli proprietari e del partito PÖTÖFI. Arriva subito la dichiarazione della neutralità ungherese e quindi l'uscita dal patto di Varsavia che lega all'Unione Sovietica e i paesi dell'Est. È secco il messaggio trasmesso per radio alle 19 del 30 ottobre. Il governo, cosciente della propria responsabilità davanti al popolo e davanti alla storia, dichiara la neutralità della Repubblica Popolare Ungherese. A Budapest è nato un progetto che ha due pilastri: l'indipendenza nazionale e il pluralismo politico. E su questo si giocheranno le sfide dei giorni e degli anni successivi. Nelle giornate tese e intense tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 1956, la questione all'ordine del giorno è più che mai quella del ritiro delle truppe sovietiche. Il governo insiste nella sua richiesta. I funzionari e gli ufficiali rossi non dicono di no, promettono lo sgombero, però prendono tempo. Ma a Mosca il nucleo ristretto del potere siede in permanenza. Discute certo dell'Ungheria e discute del fatto nuovo di questi giorni, l'attacco francese e britannico al canale di Suez, ultimo atto di un colonialismo di altri tempi. È esattamente in queste ore che il Cremlino decide il nuovo e definitivo intervento armato in Ungheria, con tutte le conseguenze di lutti e distruzioni. E questa volta, ironia della sorte, l'obiettivo da colpire è anzitutto quello di un governo capeggiato da Nagy, un comunista riformatore. E alle 4 di notte del 4 novembre si apre il sipario su una tragedia che avrebbe prodotto una ferita bruciante nella coscienza contemporanea. Qui è Imre Nagy, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Popolare Ungherese, che parla. Oggi all'alba le truppe sovietiche hanno sferrato l'attacco contro la nostra capitale, con l'evidente intenzione di abbattere il legittimo governo democratico ungherese. Le nostre truppe stanno combattendo. Il governo è al suo posto. Lo comunico al popolo d'Ungheria e all'opinione pubblica del mondo. Uno dei capitoli più dolorosi è quello dei profughi. Oltre 200.000 persone hanno attraversato la frontiera e solo pochi negli anni sono tornati in patria. Anche la famosa nazionale di calcio magiara resta all'estero. Intanto il secondo massiccio intervento sovietico chiude la breve attività del governo ungherese, nonostante Nagy e i suoi ministri lancino appelli disperati all'ONU e al mondo intero. Ma è tutto inutile, il primo ministro e i suoi collaboratori saranno arrestati e processati. Nagy sarà arrestato con uno stratagemma dopo una sosta di qualche giorno nell'ambasciata jugoslava. Per i dirigenti politici seguirà un periodo di deportazione in Romania. Poi a sorpresa il processo. Due anni dopo, nel 1958. Nagy, Maleter e Gimes saranno impiccati, tutti gli altri condannati a pene pesanti. Io per tanto tempo non sapevo neanche dove fosse. Alla fine venni a sapere che si trovava nella prigione dell'AVO, la polizia politica. Fino ad aprile non mi diedero neanche il permesso di vederlo. e non potevamo neanche scriverci. Fu soltanto da marzo che riuscii a fargli arrivare il necessario per la pulizia personale. La prima volta che gli parlai fu in maggio, durante l'anniversario del nostro matrimonio. E poiché avevo avuto questo permesso ad aprile per maggio, pensavo che da allora in poi sarebbe stato sempre così. Ma quell'incontro dell'8 maggio fu l'ultimo. Non l'ho visto mai più. Era l'8 maggio del 57. Nel settembre del 57 ci fu permesso di scriverci una lettera e da allora niente. Nessuna notizia, nonostante i miei sforzi continui. Il processo fu breve, non durò neppure una settimana. La sentenza fu pronunciata il 15 giugno del 58 e fu eseguita il 16 giugno del 58. Tutto ciò fu annunciato alla radio il 17 giugno e lo scrissero i giornali. Fu così che la gente lo venne a sapere. L'ultima fase del comunicato ufficiale diceva che la sentenza era stata eseguita. Non c'era stata alcuna possibilità di appello, né c'era qualcuno a cui rivolgersi. Non c'era niente da fare. Dopo il primo shock, credevo che tutto ciò non fosse neanche successo. Come avrebbero potuto tenere tutto ciò in così gran segreto? Credevo che forse l'Occidente, nonostante tutto, avrebbe fatto qualcosa. Avrebbe protestato e non avrebbero avuto il coraggio di processarli. Ma purtroppo le mie speranze furono vane. Nagy e gli altri martiri del 1956 saranno seppelliti in tombe senza nome in un angolo del cimitero di Budapest, il riquadro 301, luogo di tanti pellegrinaggi. La piena riabilitazione di Nagy e dei suoi amici avverrà solo il 16 giugno 1989 con i funerali di Stato in Piazza degli Eroi, segno inequivocabile dei tempi che cambiano. Quasi contemporaneamente, la Stella Rossa viene tolta dalla guglia più alta del Palazzo del Parlamento, cambia la denominazione della Repubblica e cambia il nome del partito, che diventa Partito Socialista. Presto, anche in Ungheria, si avvierà il meccanismo dell'alternanza dei diversi partiti, nel frattempo usciti alla luce, alla guida del governo. Ma qual è stata la reazione internazionale al rivolto ungherese? E in particolare, come si è comportata l'Italia? La reazione dell'opinione pubblica mondiale all'intervento sovietico ebbe un'estensione che aveva scarsi precedenti. La mobilitazione fu imponente, ma la regola ferrea della guerra fredda non venne scalfita. La cortina di ferro, che segnava anche il confine ad ovest dell'Ungheria, rimase in piedi per oltre 30 anni, fino a quando non venne tagliata materialmente con le ruspe per ordine del governo ungherese. Era l'inizio del 1989. L'impatto fu traumatico anche in Italia, dove operava il più forte partito comunista dell'Occidente. Messi dinanzi ai fatti di Budapest, Togliatti e i comunisti italiani si schierarono con Mosca. Da una parte della barricata, come si disse con un titolo dell'Unità. Ne seguirono gravi lacerazioni nel tessuto stesso del partito. Molti intellettuali si allontanarono e molti si schierarono dalla parte dei protagonisti della rivolta ungherese, che altri definivano invece controrivoluzionari. Nacque così il Manifesto dei 101. Anche il capo carismatico della CGIL, Giuseppe Di Vittorio, in un primo momento solidarizzò con gli operai ungheresi. E netta fu la condanna dell'intervento sovietico da parte di un uomo come Antonio Giolitti. Palmiro Togliatti, in quel momento, si trovò stretto in una contraddizione stridente. Fece prevalere la propria figura di dirigente del movimento comunista internazionale legato a Mosca, a detrimento del suo ruolo di capo del partito che aveva contribuito alla nascita della Repubblica e della Costituzione Democratica. pagò così un prezzo pesante. Ciò divenne in piena evidenza per la rottura con i socialisti, i quali, al contrario di quanto era accaduto nel 48 per la Cecoslovacchia, si erano invece schierati contro Mosca. Negli anni molte posizioni sono state riviste e la scelta del 56 è stata riconosciuta come tragicamente errata, fino a quando il presidente Giorgio Napolitano non ha messo la parola conclusiva dicendo che 50 anni fa aveva ragione Nenni. Concetto precisato fin sulla tomba di Imre Nagy. Ho reso quell'omaggio a nome dell'Italia, di tutta l'Italia, nel ricordo di quanti governavano l'Italia nel 1956 e assunsero una posizione risoluta a sostegno dell'insurrezione ungherese e contro l'intervento militare sovietico, e anche a nome di quanti nel corso del tempo hanno saputo riconoscere la straordinaria importanza e lungimiranza di quell'evento rivoluzionario. Dopo 13 giorni l'Ungheria torna a un'apparente normalità sotto il controllo dell'Unione Sovietica. A capo del governo ungherese rimane per più di 30 anni Kádár, che gestì alcune timide aperture verso il libero mercato e la diffusione di beni di consumo, oltre a numerose iniziative sul versante della democrazia. Ma ci vorranno appunto 30 anni perché l'Ungheria possa completamente intraprendere attivamente la strada della libertà e della democrazia.